Cari radioascoltatori, ci troviamo qui a Zurigo, davanti al Moratorium di Letti Fratelli, per intervistare il professor Antonio Caronia, professore all'Accademia di Belle Arti di Brera, alla Nuova Accademia di Belle Arti e in molti altri istituti di formazione europei. Da poco scomparso e ricoverato qui in stato di semivita. Come tutti voi sapete, lo stato di semivita è uno stadio di premorte, prima della cessazione definitiva di ogni attività cerebrale. Ma ecco qui il direttore Herbertina Schoenheit von Vogelsson, che ci potrà meglio descrivere le attività del suo istituto. Oh sì, certo, ma attendete un istante, che faccio preparare il numero 3054039B, che corrisponde appunto all'emerito professor Caronia, che voi vi apprestate a intervistare. Già, non è stata cosa facile, cari ascoltatori, convincere il direttore a farci passare avanti alla lunga lista attesa degli amici, ex studenti, ex amanti, ex colleghi, semplicemente curiosi che hanno fatto richiesta di colloquio. Bene, dicevamo, il moratorium. Ah, a proposito, avete già regolarizzato con la mia segretaria la procedura burocratica amministrativa, vero? Tutto fatto, e anche quel di più per la sua particolare attenzione. Sì, sì, certo, va bene, non occorre, insomma, proprio dire tu... Allora, il Moratorium è un'associazione filantropica senza scopo di lucro, spese a parte per la gestione ovviamente, che si occupa di tenere in vita, in semivita, i nostri cari defunti, sempre che si riesca ad intervenire in tempo col processo di congelamento, e a permettere che possano colloquiare con i propri cari durante le momentanee resurrezioni. Appositamente indotte. Come penso sappiate già, potrete conversare col vostro caro estinto tramite un dischetto di plastica da applicare sulla testa che si collega al sarcofago. Ovviamente nel vostro caso lo applicherete al microfono del vostro registratore. Avrete a disposizione 15 minuti. Colgo l'occasione per ricordare a tutti gli ascoltatori che il tempo di semivita non è infinito. Ogni risveglio accorcia il tempo di semivita e avvicina il momento fatale della dipartita assoluta. Grazie direttore. Bene, eccoci qua di fronte al sarcofago di plastica trasparente, pronti iniziare l'intervista. Professor Caronia, siamo di Radio Futura, collegati con il nostro fedele e numeroso pubblico di ascoltatori. Allora, buonasera a tutti e ovviamente grazie di essere qua. Pascal, gli uomini sono così necessariamente folli che il non essere folle equivarrebbe ad esserlo secondo un'altra forma di follia. Grazie, come potete sentire cari ascoltatori, la causticità del professor Caronia è rimasta tale anche in stato di semivita. Comunque non le sembra che il suo essere stato sempre così ipercritico nella vita abbia potuto influire negativamente sulle capacità reattive dei suoi studenti, nel loro essere critici costruttivi, diciamo? Ma credo che in questa fase sia bene abbandonare l'illusione che oggi critica significhi progresso. Oggi critica significa prevalentemente demolizione. Ecco perché non credo che si possa fare molto di più che una bella, organizzata e precisa pars destruens. Lo dico, ragazzi, in molti sensi, non soltanto figurati. Ma non possiamo soltanto distruggere. È una visione pessimista, per non dire nichilista. Questo non porta a nessun futuro. No, no, ma... no, ma... no, no. Ti dico la mia via. Io ho una via, certo. Allora, io lascerei da parte per un attimo il futuro. Il futuro verrà se saremo in grado di fare questo. Questo capitalismo funziona con la messa al lavoro della relazionalità, delle capacità linguistiche, dell'immaginario di ognuno di noi singoli. Non la seguo. Non può essere più chiaro? Lo sta facendo benissimo questo capitale, no? Cioè, il sistema produttivo lavora in questo modo. Questa cosa, in quanto tale, implica il venir meno del futuro. Si poteva fare il progetto sul capitalismo, era classico, sino a che c'era una sfera della cultura e dell'immaginario separata dal sistema produttivo. Oggi è tutto dentro il sistema produttivo. Allora, l'unica cosa possibile oggi da fare, secondo me, è quella di sabotare il sistema produttivo, sabotarlo in senso semiotico, non in senso fisico, sabotarlo in senso semiotico da questo punto di vista. Il linguaggio, diciamo, il capitalismo può valorizzare il linguaggio a una sola condizione, a quella di renderlo algoritmico, cioè a quella di trasformarlo in a quella di prendere la sua sostanza logica e basta, a quello di prendere il suo schema, la sua, come dire, struttura e passo dopo passo fa. Siccome il linguaggio è molto più ricco di questo, e questa è la roba fondamentale, l'unica cosa che ci salva è questa, che nel linguaggio c'è lo scarto. E quindi cosa occorre fare oggi? Oggi la prima cosa da fare è ristabilire la pratica della differenza. Questo vuol dire sabotare dall'interno il capitalismo cognitivo, sabotare dall'interno, affermare lo scarto e la codifferenza a livello del linguaggio. Intende dire, in altre parole, a livello creativo? A livello linguistico. Non usiamo il termine creativo per cortesia, perché è una roba di cui si sono impadroniti, si è impadronita una categoria che non voglio neanche nominare di persone in Italia, ma è quello che sarebbe stato creatività se questi disgraziati non se la fossero presa, non avessero dato questo termine per descrivere quello che fanno loro. È la costruzione, la valorizzazione della ricchezza del linguaggio contro l'algoritmicità, la processualità, la schematizzazione, il logicismo come il capitale. Una volta che avremo creato all'interno di quella piccola differenza, di quella piccola, di volta in volta, ognuno di noi può farlo pochi secondi al giorno. Non può essere più chiaro? Quando abbiamo invaso la borsa con il professor Berardi, sono piccoli momenti, brevi momenti, all'interno di quelli sì che c'è il futuro, certo, perché lo hai ricostruito, perché hai riconsiderato, perché hai riaffermato, hai mostrato, hai resa visibile la ricchezza del linguaggio come forma di vita, come diceva Wittgenstein, contro il linguaggio informatizzato del capitale, contro la parte ripetitiva, automatica, logica del. All'interno di questa cosa si riapre il futuro, certo, ma sino a che non siamo riusciti in qualche maniera a rendere più continue, più intanto a moltiplicare queste esperienze di ricreazione della differenza. Se non c'è una differenza, se dentro il reale non si apre una faglia, se non scorrono due strati geologici anche per pochi millimetri l'uno sull'altro, se le robe vengono lasciate alla processualità determinata del sistema capitalistico, non c'è modo di creare il futuro, perché questo capitalismo ce lo ha ucciso il futuro. E allora non sarà un appello, che è bellissimo fare l'appello al futuro, ma se le condizioni non ci sono è molto difficile fare. Allora bisogna che le nuove generazioni, i giovani, anche noi però, anche noi, anche io che sono vecchio sto cercando di imparare a fare in questo modo, imparino a come si può fare, dei piccoli gesti di guerriglia, delle piccole esperienze di guerriglia linguistica, comunicativa e creativa all'interno di queste esperienze, per qualche istante, per qualche momento, per qualche secondo, per qualche giorno, per qualche settimana, si riapre la questione del futuro. E perché? Perché ovviamente questo capitalismo è molto, avendo ormai inglobato dentro di sé quasi la totalità delle attività, non è più il capitalismo, faceva le sue merci, aveva la sua fabbrica, poi controllava dall'esterno la cultura, ma la critica di Adorno e Horkheimer, quel libro lì, lo pigliamo, lo buttiamo nel cesso, perché non serve più, perché descrive l'industria culturale come era ai tempi del capitalismo classico. Non c'è più un'industria culturale oggi, perché tutta l'industria è culturale, perché tutto l'immaginario fa parte, perché l'immaginario è diventato il settore del capitalismo a più alta valorizzazione. I soldi si fanno con i software, con i programmi televisivi, questo è il motore del allora in questo tipo di capitalismo. Se finché funziona così com'è, il futuro non c'è, è inutile andarlo a trovare lì. Allora cosa bisogna fare? E sarebbe anche inutile dire: no, ma adesso voglio tornare indietro, mi metto come se le cose stessero come erano 50 anni fa, e non si può fare perché non lo sono. E allora cosa si può fare? Fare, non lo so, io ho questa via, se qualcun altro ce l'ha qualche altra la può dire, non è che sono, io dico la mia, insomma. Io cerco di fare questo, cioè di aprire, queste faglie, queste piccole differenze, queste cose, e allora all'interno di questa cosa si riapre, perché uno può guardarsi dall'esterno, critichi, dire: ah, ma è così, allora faccio così, allora faccio cosa. Si crea un doppio che non è più malevolo, che non è più il fantasma, che non è più il revenant. Il capitalismo cognitivo non è nient'altro che il trionfo di Dracula, è il trionfo del revenant, è il trionfo del lavoro morto che si erge sul lavoro vivo. Accidentaccio, ragazzi, questa è la questione. Il lavoro morto comanda sul lavoro vivo finalmente, non solo nelle 8 ore di lavoro, comanda sul lavoro vivo 24 ore al giorno in tutti i posti. E allora è quando il lavoro morto comanda sempre sul lavoro vivo che bisogna imparare nuovi modi. Il nuovo modo per me è riuscire a praticare e trovare, fare l'esperienza della differenza. Questo su cosa si basa? Io ho trovato questa cosa, non ne vedo altre. Valorizzare la ricchezza e l'imprevedibilità del linguaggio contro gli automatismi linguistici del capitalismo. Dentro questa prospettiva, allora sì, posso esercitarmi per breve tempo a ricreare il futuro, ma non credo che ci sia più un futuro globale, onnicomprensivo, contrapposto al presente o in continuità col presente, col passato. Questo vecchio modello del tempo è definitivamente tramontato. Bisogna imparare a fare i progetti, secondo me, in questo modo nuovo. Bisogna imparare a essere creativi nel senso opposto a quello in cui diceva Platone. La vera creatività non è quella che imita nessuna natura, è quella che apre gli spazi di possibilità nuovi inerenti a uno strumento così difficile, così affascinante, così pericoloso come è il linguaggio. Ma come diceva Hölderlin, soltanto là dove cresce il pericolo, là cresce anche la salvezza. Grazie professore. Ora, visto che abbiamo a disposizione ancora qualche minuto, vorrebbe raccontarci di quando è venuto per la prima volta in questa città, a Milano, la sua prima impressione? Ma cosa diavolo succede? Direttrice! Eccomi, cosa c'è? Non riusciamo a capire cosa dice. Ah, già, ecco, il professore in questo momento sta parlando in lingua vegana, precisamente l'idioma di Vega 4. E perché mai? Com'è possibile? Perché è in un momento di regressione, succede. Regressione a che cosa? Alla sua vera natura, alla sua reale identità. L'abbiamo scoperto analizzando le tracce lasciate dalla sua memoria antica. Il professore proviene da Vega ed è venuto da giovane sul nostro pianeta come clandestino e ha assunto l'identità fittizia di Antonio Caronia. Il suo vero nome è Carla Emigadà, ma ecco che ha ripreso a parlare nella nostra lingua. C'è andata a vedere mondo e paese, e modi e genti, torri e palazzi. Dietro la valle è il monte, e dietro il monte è altra valle, e questa torre è altra, il monte è altana, saluta con la sua guardia verso i fuochi occidi.